Siamo a Tripoli come base, stiamo attuando un piano di sicurezza per ciascuno dei 1000 dipendenti che con noi lavorano. Chiaramente tutti i dipendenti sono importanti, noi in questo momento ci concentriamo sugli italiani, che diceva essere una quarantina, sì, cinquantina. La maggior parte degli italiani del vostro gruppo sono a Tripoli o sono anche sparsi nelle aree che lei citava, a partire dalla Cirenaica e dal deserto? Credo che ormai siano per la maggior parte a Tripoli, perché il piano di sicurezza prevederebbe anche una forma di rimpatrio, che è probabilmente già iniziato. Dalle ultime informazioni siamo in attesa di valutare, insieme all'unità di crisi di Roma, insieme ai clienti che sono nelle stesse condizioni, insieme all'ambasciata d'Italia, questa possibilità, che comunque è concreta. Attualmente 12, ad Azzavia, che è una località a 40 km da Tripoli, in direzione verso la Tunisia, sul mare. Noi, il nostro campo, che di fatto poi è stato scelto dall'ambasciata italiana come punto di ricovero, di evacuazione eventualmente per altri italiani che fossero in zone un po' più disagiate, si trova vicino appunto alla raffineria di Azzavia, 40 km grosso modo da Tripoli, quindi non in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista delle rivolte, però ovviamente sempre abbastanza a rischio in questo momento. Un punto di raccolta: noi abbiamo un campo, ormai sono 15 anni che abbiamo un campo che può accogliere fino a 80 persone, e poiché i nostri italiani sono meno, stiamo anche ovviamente accogliendo i nostri altri dipendenti espatriati, non italiani ma da altri paesi del mondo, dalle Filippine, dall'India, dalla Romania, dall'Egitto o dalla Tunisia, ha ancora la possibilità di accogliere altre persone. E quindi, vista anche la posizione abbastanza strategica, appunto essendo vicino a una raffineria abbastanza protetta normalmente, è stato eletto come punto di ricovero. Stanno arrivando da noi ormai 3-4 persone in questo momento. Gli italiani sono prenotati sui voli da domani e dopodomani, quindi rientreranno i nostri fino ad esaurimento, salvo appunto che un paio non vengano, diciamo, in qualche modo, se protetti e garantiti evidentemente dall'ambasciata italiana tramite scorte e procedure di sicurezza, potrebbero rimanere lì una persona o due a presidiare il campo. Il lavoro è su tutto il territorio, partendo da est, Derna, una delle città appunto coinvolte negli ultimi tumulti, fino a ovest, Sabrata, che è uno dei luoghi in cui, dei siti degli ultimi, uno dei nostri ultimi progetti grandi. Noi adesso abbiamo giù un paio di italiani, gli altri sono rientrati già da una decina di giorni. Abbiamo già predisposto questa situazione di emergenza e devo ringraziare, credo che anche gli altri periodi debbano fare, perché per noi sta facendo un lavoro eccellente l'ambasciata, monitorando tutto il nostro personale continuamente con una gentilezza e una capacità straordinaria. E noi abbiamo ricevuto i primi messaggi dalla sicurezza e dalla rete commerciale, il dottor Catalano, fin dalle prime settimane, dai primi scaramucci in Egitto. E avevano già predisposto appunto i luoghi, tutti gli operatori sul posto hanno a disposizione le mail che l'ambasciata ha dedicato a tutte le imprese presenti, indicando i punti di raccolta. E l'unico problema sono le comunicazioni. Adesso per fortuna ci sono due operatori in Libia, uno è il Libiano e l'altro è il Madar, il Libiano a Bengasi funziona e quindi in qualche modo si riesce a raggiungere chi ha la scheda libiana. Purtroppo chi è là residente non trova più la disponibilità nei negozi,